want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di Gegé Telesco. Siete collegati con The Groove Master Room per il soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti da Gegé Telesforo. Oggi è venerdì e se sulle tavole imbandite degli italiani il venerdì, come da tradizione, dovrebbe arrivare il pesce fresco, pesce si dice il venerdì, qui da noi al soundcheck arrivano produzioni discografiche appena sfornate dalle case indipendenti o major. Ma abbiamo ascoltato da questa mattina tantissima musica e quindi non vorrei perdere tempo e presentare subito alcune novità. Per esempio la Stax Record, che ha ricominciato a produrre musica, ritrova il signor Booker T. Jones, famosissimo nella metà degli anni 60 con la sua band Booker T. and the MGs, con la quale ha accompagnato in album gloriosi e in tante tournée musicisti come Otis Redding oppure Willie Nelson, star della country music. Oggi Booker T. Jones ritorna con un album nuovissimo intitolato Sound the Alarm, una vera sveglia per tutti noi, perché Booker T rinnova il suo sound con il suo organo Hammond, richiedendo la collaborazione di alcune star del contemporary R&B come Jay James, Anthony Hamilton, Gary Clark, oppure come nel caso di questo brano che vorrei farvi ascoltare, molto divertente, molto piacevole e leggero, dal titolo 66 Impala. Booker T si fa accompagnare ritmicamente da due maestri delle percussioni, il maestro conghero Poncho Sanchez, che abbiamo conosciuto nelle band di James Brown, e dalla bellissima Sheila Escovedo, in arte Sheila E, già prodotta da Prince, batterista, percussionista e cantante di prima grandezza, che regalano a Booker T un impatto ritmico notevole per questa composizione che si chiama 66 Impala, per dare il via al soundcheck di Radio 24. Il sound rinnovato di Booker T. Jones, maestro dell'organo Hammond, che torna per la Stax Record con l'album Sound the Alarm in questo venerdì qui al Soundcheck, durante il quale vogliamo presentarvi le nuove pubblicazioni, perché nel weekend potete tranquillamente andare nel vostro negozio di dischi preferiti e acquistare la musica più adatta alla vostra personalità. Potete anche scaricarla attraverso il vostro telefonino con la app preferita, sull'iPad, il computer, ma scaricate musica legalmente. Vogliamo ricordarvi che fare il download selvaggio è un reato federale, direbbero negli Stati Uniti, e qui in Italia, anche da noi, è considerato un vero e proprio furto. Quindi attenzione, se non volete andare all'inferno, musica solo originale. Questo è il soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. John Henry, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, che arriva dalla tradizione, dal songbook afroamericano degli Spiritual, per la voce della giovanissima Cecile McLaurin Salvant. 23enne, arriva da Miami, Florida, figlia di una signora francese, papà hawaiano, sangue misto per lei, legata alla tradizione del jazz. Infatti questo album, che si intitola Woman Child, lo ha dedicato alle sue artiste di riferimento: Billie Holiday, Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald. Siete in contatto con il soundcheck di Radio 24 e qui al nostro soundcheck, alla nostra prova del suono, eccolo qui, bellissimo come sempre, con il suo sax tenore arriva Joshua Redman, anche lui figlio d'arte, figlio di Dewey Redman, un passato glorioso per il papà a fianco a Keith Jarrett. Joshua Redman qui incontra nuovamente il suo pianista preferito, ma anche uno dei miei musicisti preferiti, ovvero Brad Mehldau, che ha anche prodotto questo album dal titolo Walking Shadows. Gli altri musicisti, beh, altre star del jazz contemporaneo come Larry Grenadier al contrabbasso e Brian Blade alla batteria. Joshua Redman rivisita alcuni standard di jazz come la bellissima Lush Life oppure Easy Living, ma si dedica anche a nuove interpretazioni di classici della pop music come uno dei cavalli di battaglia dei Beatles, Lady B, oppure Stop This Train, portato al successo dal songwriter John Mayer. E prima di farvi ascoltare Stop This Train con Joshua Redman al sax tenore, vorrei anticiparvi che il 20 di ottobre, domenica 20 di ottobre, parte proprio con il quartetto di Joshua Redman la 37esima edizione del Roma Jazz Festival, edizione intitolata Speech, ovvero Jazz e Letteratura. Questo progetto, leggo qui nella brochure che mi è stata consegnata proprio dagli addetti dell'Auditorium Parco della Musica, nasce dalla considerazione che la musica jazz, e quello che rappresenta, ha attraversato il mondo intero influenzando la modalità narrativa di grandi scrittori e poeti, creando un legame più profondo di quanto si possa pensare tra musica e letteratura. Che cosa significa? Che tutti i concerti di questa edizione del Roma Jazz Festival saranno aperti da letture. Nel caso di Joshua Redman, il lettore sarà Paolo Rossi, che leggerà alcuni passi dal libro 10 dicembre di George Saunders. Quindi non perdetevi la 37esima edizione del Roma Jazz Festival, tutte le informazioni via internet nel sito dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Arriva Joshua Redman con Stop This Train al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il nostro soundcheck, la prova del suono di Radio 24, e rispondo in diretta a alcuni appassionati di musica che hanno inviato una mail chiedendoci le informazioni sui dischi e gli artisti che abbiamo proposto oggi, perché il venerdì abbiamo deciso di proporre le novità. Non c'è problema, se andate nel sito di Radio 24 potrete iscrivervi al podcast del nostro soundcheck e ritrovare così tutte le informazioni. Allora, prendete carta e penna, infatti, e segnatevi questo nome: Derrick Hodge. Derrick Hodge. Avete mai sentito parlare di Derrick Hodge? Bassista, contrabbassista, in forza a Robert Glasper Experiment, la super band di questo pianista americano che ha vinto il Grammy Award con Black Radio come miglior album R&B della passata stagione. E Derrick Hodge, proprio per l'amicizia che ha con Robert Glasper, approda anche lui alla Blue Note Records. E beh, questa è una bella soddisfazione per un artista che per anni ha fatto il gregario e che ora diventa band leader, quindi si assume le sue responsabilità di band leader, scrive tutta la musica presente in questo album dal titolo Live Today, coinvolge musicisti della nuova generazione come i batteristi Chris Dave e Mark Kohlenburg, che rappresentano il non plus ultra del groove e del jazz contemporaneo, oppure star come Common, famoso rapper americano, e Alan Hampton, bellissima voce questo ragazzo giovanissimo, già star della country music, ma poiché è un musicista versatile e anche molto preparato, può levarsi la soddisfazione di lavorare con artisti del calibro di Derrick Hodge, che qui lo coinvolge in questa sua composizione delicatissima, molto romantica, dal titolo Holding Into You. Derrick Hodge, nuovissimo album per lui, per la Blue Note Records, intitolato Live Today, al soundcheck di Radio 24. For my love will stay and guard your heart, and I know the pain that the past has brought in. And when you hold my hand and I stay holding on to you. La voce di Alan Hampton, guest di questo nuovo album per il bassista Derrick Hodge, intitolato Live Today. E non vorrei perdere tempo, perché abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, e vorrei farvi ascoltare Stefano Bollani. Anzi, approfitto per fare i complimenti a Stefano Bollani per aver realizzato su Rai 3 Tutte le domeniche sostiene Bollani, seconda edizione, per uno dei più bei programmi di musica mai realizzati sulla televisione italiana. Un vero programma di musica, il talento espresso al 100%, con grandi musicisti, il tutto fatto in allegria e senza prendersi molto sul serio, anche se poi Stefano Bollani con il tempo e negli anni è diventato uno dei pianisti più importanti del mondo. Suona di tutto, dal jazz alla musica classica, divertendosi, e qui si diverte dal vivo, da questa nuova pubblicazione per la ECM intitolata O Che Sarà, con Hamilton Giolanda, musicista brasiliano, uno dei migliori esponenti del bandolim. Il bandolim è uno strumento, una via di mezzo fra il cavaquinho e il mandolino, uno strumento brasiliano che solo Hamilton Giolanda suona così. Stefano Bollani e Hamilton Giolanda chiudono il soundcheck di Radio 24, e qui ne sentite delle belle. Buona giornata a tutti da Gigi Telesforo. Soundcheck. Il suono della musica.